signore e signori, signore e signore e buongiorno. Buongiorno. Comincia il cammino. E signori. Ecco a voi Gigi D'Agostino. Eh? Posso andare? Vai! Agoso! Eh? Posso andare? Posso andare? Ma che è la sua? Ore 18. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Negre, va a sapere. In Sicilia le femmine sono come l'ubare. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino, il vostro pensierino, il vostro pensierino, il vostro pensierino, il vostro pensierino, il vostro pensierino. Mogashi, via questo. Il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333 64 67 662. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. ritmo lento e violento. Ritmo lento e violento. Ritmo lento e violento. Ritmo lento e violento. Ritmo lento. Lo sento dentro. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Vibra forte il pavimento, lui ti avvinghia in modo lento. Respiri a stento, il suo sound è violento. È violento. È violento. È violento. È violento. È violento. Sì, sì. È violento. Sì, sì. È violento. Stai zitto un pochino. Cammino di Gigi Balbottino. Cammino di Gigi Balbottino. Cammino di Gigi Balbottino. Cammino di Gigi. Cammino di Gigi Balbottino. Cammino di Gigi Balbottino. Cammino di Gigi Balbottino. Cammino di Gigi. We'll be right back. questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Per l'appunto, il cammino te lo suona Gigi D'Agostino. Per l'appunto, il cammino te lo suona Gigi D'Agostino. Per l'appunto, il cammino te lo suona Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino, Gigi D'Agostino. Oh! Put up, put up, put up, put up, put up, put up, put up, put up. Musica, musica, musica vuoi ascoltare? Se questa musica, musica, musica vuoi ascoltare? Su M2O ti devi sintonizzare. È vero, è vero. Dove suono domani Gigi D'Agostino sarà discoteca Essenza, Castelnuovo, Castelnuovo, Castelnuovo, Berardenga, Siena. Ci vediamo lì, ci vediamo lì, ci vediamo lì. Arriva, arriva Gigi D'Agostino. Attaccate la penna. Dai. Prendete il foglietto. Dai. Questo è il. Questo è il. Questo è il. Questo è il. Questo è il numeretto. Se volete scrivermi, il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. 333-64-67-662. Scusate se vi ammacco il pitone. Vi leggo una citazione. Sì, vabbè. O quanta species. Cerebrum non habet. Cerebrum non habet. Fedro. Like a river that opens the sea. This is the way that it has to be. Fermiamo un attimo per prendere fiato. Il nostro cammino non è terminato. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Andiamo, regà! Inventa, vivi e diventa. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Oggi già. Come on, Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza. M2O, mica pistacchi, stighecchi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Qui si vola a tempo, attraverso le armonie. Spettacolo tra gli questo, la forza della musica. Cosa ti riesce a fare? Come ti riesce a stravolgere i colori intorno? Cioè, ti trovi con le mani al cielo e non sai neanche perché. Cammino di Gigi D'Agostino. Qua c'è il cammino di Gigi Gattino. Il gattino. Il cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello. Sabato 14 ottobre, discoteca Essenza a Castelnuovo per la Laura. Sì, vabbè. Castelnuovo Baradegna. Per Ardenga. Ce la puoi fare. Siena. Domenica 15 ottobre, discoteca Pascià, La Pineda, Terragona. Ah, cazzimma. Leggi bene, se no ti estraggo le ginocchia o la pota. Discoteca Pascià, La Pineda, Tarragona, Spagna. Ci vediamo lì. Con le musiche e le storie suonate da me, vieni anche te. Il cammino di Gigi D'Agostino. Attimi di coincidenza con i tuoi sogni. Mixada, va.

musica allo stato puro. Chica, quiero hablarte una mucha cosa. ¿Cuál es el nominio de este programa musical mental? Esto es... Chica, explícame el nominio. Mira, no estoy aquí a acarezarme el chihuahua. Tiempo quasi. Per piacere, prestiamo attenzione perché sto mixando, c'è bisogno di concentrazione. Dai, G. C'è la musica che pesta. Che pesta. Minchia, questi non sono noccioline, ma boom a mano. Scrivermi, manda il messaggino 333 64 67 662. Attraverso questo cammino potete lanciare il vostro pensierino, eh? No, poi dicono che non so fare le rime. Vabbè. Sono per tutto e tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Ai propri nemici fra i conservatori e ha solo tiepidi difensori fra coloro che sperano di trarre vantaggio dalle nuove leggi. Niccolò Machiavelli. Sì, non è che siamo qui a piantare i piselli.

famiglia danzante. Ho fatto un sogno. Tipo? No, niente, volevo dirlo. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Dai Gigi, fammi sentire sta bella cassa. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Mandate le vostre dediche, dediche, dediche, dediche, dediche, dediche. Se volete mandare le vostre dediche, sì, dai, dai, dai. Il numero di SMS è. Dai, che famo notti? Non mi sento molto bene. Vabbè. Vai, ci aiuto. 3-3-3-6-4-6-7-6-6-2. Se hai l'impulso, mi scrivi. Se no, desisti. Cellulare, questo è il cammino, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare, lasciati andare. A cosa? lasciati andare, lasciati andare. Che dici? Una camilla, una panchina danzante. No. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Bella Gigi. Grazie per aver scelto questo mondo, che esplora altri mondi e che crea un suo mondo, fuori dal mondo. Ci troviamo qui domani alle 18. Non giochiamo.